l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come sempre dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale legato all'Europa, alla sua cultura, la sua attualità, la sua politica. Cerchiamo anche altri punti di vista che vadano oltre la quotidianità. Oggi faremo un bel viaggio, parleremo del Nobel, andremo in Grecia per scoprire qualcosa di più su Alba Dorata, parleremo di due importanti argomenti che sono il discorso armamenti legato tra l'altro al Nobel per la pace e poi quello che si sta facendo contro la pedopornografia digitale. Insomma, tanti argomenti. Come sempre potete seguirci anche in diretta sui nostri social network, facebook.com/l'altraeuropa, la nostra pagina ufficiale, oppure su Twitter, l'account è Federico Taddia. Lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi partiamo dall'Emilia e partiamo da un gemellaggio. Una canzone molto anni 80 di un gruppo che si chiamano I Gemelli e cantano questo faccia a faccia, cuore a cuore, faccia a faccia, cuore a cuore, per parlare dell'Emilia che riparte, la nostra grande iniziativa di Radio 24 che si sta svolgendo in queste settimane e si concluderà poi a Mirandola venerdì con una doppia diretta alle 17, Sebastiano Barrisoni con Focus Economia, mentre alle 21 sarò lì a Mirandola con uno speciale di 2 ore per conoscere le facce e le storie dell'Emilia che cerca di rialzarsi a 6 mesi dal terremoto. E proprio lì da Mirandola abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ascoltatrice che ci porta proprio in questo flusso di aiuti, di solidarietà, di collaborazione che è arrivato in questo periodo dall'Emilia, anche dall'Europa, e come tutto ciò può nascere da un gemellaggio. Con noi c'è Anna Orlandini. Ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Tu sei laureata in... In lingue e letterature straniere. Ecco, nel tuo percorso di studi hai partecipato a un Erasmus e la tua idea era proprio quella di studiare la costruzione della casa Europa, di questa casa comune, e di quanto l'attività dei gemellaggi possa essere significativa, possa incidere proprio nel questo scambio, in questo confronto di culture. Tu abiti vicino a Mirandola e hai proprio analizzato un gemellaggio tra Mirandola e un paese tedesco. Raccontaci un po' l'esperienza. Dunque, io sono partita grazie al progetto Erasmus Placement, che è questo tirocinio di 3 mesi promosso dall'università insieme con l'Unione Europea, e sono andata lì un po' per studiare l'Europa, per studiare un'istituzione che spesso viene sottovalutata, soprattutto magari in Italia rispetto agli altri paesi, che è quella proprio del gemellaggio europeo, che è un modo che l'Europa ha dato a tutti i suoi cittadini di conoscersi direttamente e quindi anche di superare delle idee preconcette che spesso si hanno sugli altri proprio tramite la diretta conoscenza dell'altro, senza passare attraverso le istituzioni burocratiche e amministrative che spesso sembrano così distanti da noi. Quindi... Ecco, perché di solito, scusa, uno pensa a un gemellaggio tra paesi, le prime cose che si immagina è il cartello all'ingresso del paese, no? Esatto. Comune di gemellato con, e poi un incontro tra le due bande, uno scambio di gagliardetti, un pranzo in comune. Invece c'è qualcosa di più. Sì, c'è qualcosa di più assolutamente, oltre a questi aspetti che comunque costituiscono anche la base, no, del contatto con gli altri, c'è un aspetto anche di fratellanza, di solidarietà e anche della costruzione di una coscienza europea che altrimenti è difficile proprio da edificare. Invece, proprio attraverso la costituzione di queste amicizie, il rapporto diretto, ecco che si instaurano dei legami che poi vanno al di là dei rapporti istituzionali, e le persone mantengono i rapporti personalmente, scusate il gioco di parole, quindi senza passare tramite le istituzioni. E si è proprio visto grazie anche agli aiuti che il comune di Ostildern ha dato al comune di Mirandola e anche all'empatia che hanno dimostrato dopo tutto quello che è accaduto. Tu sei stata in questo paese, in Germania, gli hai fatto un questionario, e quali sono gli aspetti più importanti che hai analizzato, che hai portato a casa? Dunque, io ho chiesto se innanzitutto gli scambi, proprio domande base, fossero piaciuti e poi se il gemellaggio fosse effettivamente utile a costituire questa coscienza europea, sentirsi tutti parte di un'unica comunità, pur naturalmente nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ognuno. E le risposte sono state affermative, nel senso che prima degli scambi, del contatto diretto con i partner internazionali, magari c'erano sempre un po' dei pregiudizi, delle idee preconcette che poi sono svanite nel momento della fine dello scambio e spesso anche con i ragazzi delle scuole questo ha dato un impulso fortissimo anche alla voglia di apprendere la lingua straniera, perché è tramite la comunicazione che poi sorge anche la voglia di comunicare. Certo, Anna, sono arrivate delegazioni, vero, tedesche, sono venuti lì a Mirandola, hanno visitato, hanno guardato, ci puoi sintetizzare un attimo proprio quello che è successo? Niente, loro sono venuti in visita a portare il loro sostegno economico e si sono spesi in tutte proprio le parti della cittadinanza, dalla scuola di musica ai vigili del fuoco, alle scuole elementari, materne, tutti quanti hanno dato il loro contributo in una dimostrazione di solidarietà proprio straordinaria. E poi sono venuti in visita, una visita all'AMPO, proprio per non pesare in alcun modo sull'organizzazione generale, che era già piuttosto precaria e complessa, e sono tornati a casa lasciando proprio cuori pieni, perché siamo molto grati di tutta questa solidarietà che ci hanno dimostrato. Grazie davvero Elena per averci raccontato la tua esperienza, ci vedremo e ne riparleremo credo anche venerdì sera durante lo speciale da Mirandola, l'Emilia. Grazie che riparte, vi ricordo, da Villa Tagliata, ovviamente ingresso libero per queste due ore, per questa giornata intera che Radio 24 al termine di queste due settimane dedica ancora l'euro all'Emilia che si vuole rialzare anche partendo dall'Europa. Ciao Anna, grazie, buon sabato. Ciao, grazie. Chiedo scusa per il colpo di tosse, ma oggi non è giornata. Stiamo parlando di pace d'Europa perché lunedì verrà ufficialmente assegnato il premio Nobel per la pace all'Unione Europea, una celebrazione che sarà seguita in diretta da tutto il mondo e ovviamente ci saranno anche gli occhi e le orecchie di Radio 24 con il nostro caporedattore Gigi Donelli che sta partendo proprio in questi minuti per Oslo. Ciao Gigi. Ciao Federico, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo ad Oslo per prenderci un pezzettino di premio che ci meritiamo anche noi che crediamo nell'Europa, no? Questo è veramente un Nobel per la pace da 500 milioni di cittadini. Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo con te, anche perché come dire, in molti che credono, forse anche una questione generazionale, chi magari a cavallo anche tra due generazioni si rende conto effettivamente del passato, cioè del progetto di pace, dei risultati straordinari dell'Unione Europea, ma d'altra parte anche molto speranzoso sul futuro, nel senso che non vorremmo che fosse il premio del passato per le non guerre fatte appunto dopo la terribile sequenza del Novecento. Insomma, abbiamo ambizioni maggiori e sono ambizioni in Europa. Credo che ormai chiunque a vario titolo o per lavoro o per amicizia, insomma, la rete delle relazioni si amplia. L'Unione Europea che proprio quest'anno ha vissuto forse la sua fase più critica, in realtà non è mai stata al centro della nostra vita quotidiana. Probabilmente, anzi, per quanto mi riguarda ne sono certo, è tempo davvero di fare un grosso passo in avanti. Il Nobel per la pace, in questo senso, almeno io lo vedo come una sorta di auspicio per il futuro. Certo. Perché poi sappiamo anche, Federico, che il Nobel per la pace sono occasione di discussioni infinite, non certo da oggi. No, di confronto, incontro, guardarsi dentro, perché è un Nobel per la pace come punto d'arrivo per quella pace interna che si ha all'interno dell'Unione, ma che si auspica anche quella pace che l'Unione Europea può tentare di portare fuori dai propri confini, perché è lì, dai Balcani alla Turchia, certo, al Medio Oriente, a tutte le zone dove comunque l'Europa deve essere presente. Sarà anche un sorta di mini vertice europeo, perché ci saranno tutti, quasi tutti, perché ho visto che c'è qualche polemica, c'è qualcuno, per esempio il premier della Repubblica Ceca non andrà, comunque sarà un mini vertice europeo. Sì, decisamente, non credo che sia un caso che il primo incontro della lista del ministro Stoltenberg che segue la cerimonia, e col cancelliere tedesco Angela Merkel. Dopodiché ci sarà, è previsto il ministro Monti, il primo ministro Monti. Insomma, è evidente che è anche un'occasione simbolica, però, per essere presenti e rinnovare l'impegno. Tra l'altro Oslo, come potete immaginare, nelle prossime ore diventerà una cittadella chiusa, sono stati sospesi tutta una serie di quelle libertà che abbiamo imparato ad acquisire, senza magari neanche accorgere, cioè tutte quelle facilitazioni doganali verranno sospese, perché Oslo, dopo la drammatica esperienza recente, anche diventa una città molto più controllata dalla polizia, arrivano i capi di Stato. Insomma, anche questo fa parte della grande cerimonia. Voglio ricordare anche lunedì sera, forse il momento che per molti è il più toccante, il più caldo, è quello della grande fiaccolata notturna che segue tradizionalmente dal 1901, pensate, nell'inverno norvegese, appunto, il conferimento del premio Nobel per la pace. Gigi, Radio 24 sarà presente appunto con la tua voce, in che modo sono previste, immagino, dirette all'interno dei GR e poi? Sì, soprattutto con la voce dei protagonisti. Quindi innanzitutto vi segnalo che dal sito radio24.it ci sarà l'accesso per la cerimonia integrale, quindi chi volesse vedere anche questo rituale che si svolge nella Rathaus, quindi nel comune di fatto di Oslo. Poi naturalmente avremo le interviste, le dirette del GR, e nel corso della settimana anche vi anticipo un reportage, degli approfondimenti dedicati anche alle polemiche, ripeto, perché ce ne sono e fanno parte veramente della storia del Nobel, e naturalmente devono riguardare anche l'Unione Europea, che non è certo un'icona ma un processo, insomma, da mettere in discussione perché possa anche essere più forte in futuro. Gigi, ti presento anche una collega che sarà con te, perché era pace, Europa, futuro. Cosa significa pace in Europa per te? È stata la domanda posta ai giovani provenienti da tutta l'Unione e dai paesi in via di adesione in questo concorso, dove i giovani potevano partecipare nella speranza di vincere, e quindi in palio c'era la possibilità di seguire in diretta la consegna del Nobel. C'è anche una ragazza italiana che ha vinto, si chiama Elena, vive a Novato Milanese e forse anche lei è in aeroporto. Ciao Elena. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti anni hai, Elena? Ne ho 16. Quando parti per Oslo? Parto domani a mezzogiorno, più o meno. Ok, quindi tu hai posticipato di un giorno. Elena, tu hai partecipato con un tweet, ho capito bene? Sì, si trattava di scrivere un massimo di 120 caratteri e di aggiungere eventualmente un'attivazione di 300. Uh-huh. E qual è stata la frase, il pensiero, la riflessione che ti ha permesso di vincere questo concorso? Io ho scritto un acronimo, ho scritto pace, due punti, ponte, aventi, comuni, estremità. Vedi, nella semplicità si riesce veramente a dire e a raccontare tutto. Sei emozionata? Sono emozionatissima, assolutamente sì. Ascolta, ma ti sei preparata? Nel senso, avevi già comunque conoscenze europee o hai studiato in vista di questo viaggio? No, non conoscevo assolutamente nessuno. Sapevo qualcosa, ma mi sono anche informata molto in questi giorni. Perfetto. In bocca al lupo, sicuramente. Gigi, vi incontrerete, credo, a Oslo, e insomma potrai raccontare tu in diretta anche l'emozione di Elena di poter partecipare a questo evento, credo. Assolutamente, anche in questo io vedo la bellezza dell'Europa. Elena e la sua generazione, giustamente, dice, in fondo non ne so molto. È legittimo, fa parte del loro presente, magari raccontandolo da diverse prospettive ci si rende conto sempre del percorso che è stato fatto, anche di andare in giro per l'Europa con la propria carta d'identità. Pace, ponte, avente, comuni, estremità, facciamo nostro il tweet con cui Elena ha vinto. Ciao Gigi, buon lavoro, ciao Elena, buon viaggio, e insomma portateci a casa un po' di questo Nobel. Ciao, grazie, ciao ciao. Ciao. Europost-it. Arte e rifugiati politici. A Lubiana arriva Studio Asylum. C'è qualcuno che in Slovenia, punto di incontro tra l'Unione Europea e il Grande Est, ha deciso di investire sulla cultura dell'asilo. Si chiama Studio Asylum ed è un progetto nato nel Centro Culturale Autonomo di Metelkova Mesto, a Lubiana. L'obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare il fenomeno della richiesta di asilo politico in arte. è merito dell'associazione Kud Mreza, che con la residenza artistica presso lo studio Asylum vuole dare un'opportunità agli artisti emergenti stranieri che non hanno accesso al mondo patinato dell'arte. Il progetto è infatti dedicato a chi ha nuove idee, nuovi stili di vita e che voglia fare dell'arte il proprio lavoro. Per maggiori informazioni visitate il sito kudmreza.org. E dal Nobel per la pace passiamo a parlare di armamenti, che sembra un contrasto, no? E invece ci piaceva fare questo approfondimento e lo facciamo insieme al coordinatore della rete italiana per il disarmo e uno dei coautori del libro Armi, una storia di Stato, edito da Chiara Lettere. Diamo le benvenute a Francesco Vignarca. Ciao Francesco. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, buon sabato a te. Abbiamo parlato di Nobel per la pace, abbiamo parlato di pace e andiamo a parlare di armi. C'è ovviamente un elemento di contrasto, c'è anche un elemento di contiguità. E voi nel vostro libro avete fatto una denuncia forte allo Stato italiano, ma non solo, per quello che riguarda le spese militari. Volevo fare con te però una riflessione un po' allargata. Parliamo di pace, parliamo di armi. Ecco, qual è il link tra queste due dimensioni? L'Unione Europea rispetto al traffico di armi, la produzione, l'acquisto, qual è la fotografia che si può fare oggi? Ma noi diciamo che appunto l'Europa ha una responsabilità adesso e in prospettiva potrebbe avere ulteriori passi, no, per migliorare. Il premio viene dato perché l'Europa è riuscita a garantire all'interno dei propri confini una pace che non si era mai vista, e questo è bene. Ci piacerebbe che lo facesse, proprio perché siamo convinti della bontà del progetto europeo, anche fuori dai propri confini. Invece attualmente l'Europa è il primo esportatore mondiale di armi, se prendiamo tutti i 27 paesi. Negli ultimi 10 anni, teatro anche di una grandissima crisi che conosciamo anche noi, ma che è diffusa anche in altri paesi europei, le importazioni, cioè gli acquisti di armi dell'Europa sono cresciute del 13%, e così anche le spese militari. Tra l'altro, questo non è banale, non è secondario, chi ha speso di più in armi sarà proprio la Grecia che abbiamo visto negli ultimi 2 anni essere proprio in crisi. I paesi europei continuano a non tagliare sull'esercito e soprattutto, che è una teoria che voi portate avanti, avete proposto anche in passato, quella di un esercito comune, che avrebbe un significato solo legato a un risparmio economico o sarebbe un significato più profondo? No, chiaramente avrebbe anche un significato profondo di continuare il cammino verso un'unione più concretamente appunto unita, come dire. Poi c'è anche il tema del risparmio, però attualmente in Europa ci sono 2,5 milioni di uomini e donne sotto le armi. Noi potremmo sviluppare un esercito di pronto intervento europeo da 250.000 uomini e donne, risparmiando, si stima, 70 miliardi di euro ogni anno, che potrebbero essere reinvestiti ovviamente per lo sviluppo economico, che assorbirebbe anche gli ovvi problemi di mancanza di posto di lavoro di queste persone. Invece si punta sempre a mantenere una differenza di armamenti, di linee logistiche, perché su questo l'industria degli armamenti, che è un'industria appunto di Stato, come diciamo noi, controllata dai soliti noti, ci può fare sopra un sacco di soldi e lucrare. Noi crediamo che la strada tracciata dall'Europa, l'Europa sempre più vicina, e l'Europa che è stata fatta più dall'Erasmus che dagli eserciti in un certo senso, debba continuare anche in quest'ottica, perché noi non vogliamo, come appunto tu richiamavi la Grecia, che succeda come in questi anni, a cui la Grecia sono stati imposti pesanti tagli, tranne quelli degli armamenti. Merkel e Sarkozy non hanno voluto che il governo greco annullasse gli ordini di sommergibili e navi. Noi pensiamo che non sia giusto, pensiamo che appunto l'Europa vada costruita su altre basi. Una storia di Stato, perché sono comunque gli stati singoli a decidere, cioè non c'è una visione comune, o forse c'è in teoria ma poi non c'è nella pratica. Sì, diciamo che l'unica cosa su cui gli stati non hanno mai voluto che l'Europa mettesse il naso è proprio la difesa e la sicurezza. Noi crediamo che invece anche in questo senso la cooperazione sarebbe migliorativa per tutti. E appunto l'altro mito che volevamo sfatare con questo libro è che le armi vanno in giro per il mondo per i trafficanti. In realtà è quasi tutto commercio legale, commercio certificato, ma non controllato, e soprattutto fatto per motivazioni politiche che poi magari cambiano, come è successo a noi quando abbiamo venduto 11.500 pistole e fucili a Gheddafi 3-4 mesi prima di attaccarlo, bombardandolo come abbiamo fatto con l'operazione libica. Delle due l'una, o abbiamo sbagliato prima a dargli le armi, oppure era un po' difficile sostenere di poterlo bombardare proprio perché con quelle stesse armi lui uccideva il suo popolo e nessuno sta difendendo Gheddafi. Certo. È solo per dirvi come il commercio di armamenti risponde a logiche che con lo sviluppo, con la pace, spesso non hanno nulla a che fare. Un'Europa unita potrebbe cambiare questa prospettiva. Grazie davvero a Francesco Vignarca. Armi, una storia di Stato. Chiare lettere. Ciao e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Europost-it. Agricoltura e lavoro. Tutti a Berlino per la Settimana Verde. L'agricoltura è la vostra passione e il vostro lavoro? A Berlino dal 17 al 28 gennaio 2013 si terrà l'Internazionale Grüne Woche, la fiera dell'agricoltura più grande del mondo che l'anno scorso ha registrato più di 400.000 presenze. L'evento, giunto alla sua 78esima edizione, è di fondamentale importanza e sarà inoltre l'occasione per oltre 200 tra ministri tedeschi e delegati stranieri per incontrarsi e condividere buone pratiche normative e professionali nel campo dell'ortocultura e dell'agricoltura. Produttori provenienti da tutto il mondo saranno presenti per promuovere le proprie aziende che quest'anno più che mai hanno investito su prodotti agricoli biologici, basati su processi di produzione rinnovabili. Potrete trovare prodotti di lusso, alimenti freschi, birra, vino, liquori, carne insaccati, infusioni e spezie, sementi, articoli per serre, animali da cortile e prodotti per la caccia e la pesca. Insomma, una fiera per tutti i gusti. Per maggiori informazioni visitate il sito gruenewoche.de. A bomb has exploded at the offices of a far-right political party in the Greek capital, Athens. No one was injured in the blast at the local headquarters of Golden Dawn, but the explosion caused considerable damage to the building. Golden Dawn, riding high on a wave of public fury at austerity, corrupt politicians and illegal immigration, is now the third biggest party in the cash-strapped nation. Una bomba nella sede di Alba Dorata, questa è la notizia di cui si parla in questo servizio che stiamo ascoltando ed è uno degli ultimi episodi dell'escalation politica, sociale, anche culturale che sta avendo questo partito, questo movimento in Grecia. Nelle ultime elezioni il partito ha conquistato 18 seggi, un partito che ha avuto molte etichette, un tacciato di populismo, di nazionalismo, anche di neonazismo, tanto che si sta discutendo nel Parlamento se porlo fuori legge. Ecco, volevamo capire dal di dentro, perché questo è quello che viene letto da fuori, quali sono gli ideali, se di ideali si può parlare, portati avanti da questo partito e come analizzano loro questa precisa fase storica. Lo facciamo con una parlamentare greca di Alba Dorata. Diamo il benvenuto a Elena Zaruola. Buongiorno Zaruola. Zaruglia, grazie. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Lei parla italiano, come mai? Un po'. L'ho imparato in vacanza. Quando ero giovane. Oh, ho capito. Tanti anni fa. Terza forza politica del paese ormai in Grecia. Cosa rispondete all'accusa diretta di essere un partito neonazista? Tutte bugie. Siamo nazionalisti greci. Il sistema è impaurato di noi perché siamo al terza preferazione del popolo greco. Però con scelte molto discutibili. Stavo leggendo per esempio adesso la creazione di questa associazione di medici con frontiere, cioè medici solo per cittadini greci. Ho visto che il partito ha chiesto il licenziamento di alcune maestre perché facevano lezione anche in lingua albanese oltre che in lingua greca. Tutto ciò non porta solo a ulteriori divisioni della società? No, quale divisioni? È chiaro, per tutta questa attività il sistema politico l'alba dorata in Grecia rappresenta il capro espiatorio, perché essendo diversa lontana dalle pratiche politiche degli ultimi anni, costituisce una minaccia politica per lo status quo politico ed economico che sostanzialmente ha condotto il popolo greco alla situazione odierna. Dall'altra parte, noi siamo cittadini greci e lottiamo per la materializzazione dei nostri promessi al popolo greco, con conseguenza e con rispetto alla verità. Tentiamo di aiutare il popolo greco lontano nel Parlamento, nei sindacati, sulle strade, sugli spazi di massa, avendo in mente sempre gli interessi del popolo e cittadino greco, organizzando offerte gratis ed aiuto di nutrizione, medico e medicinale, ed offrendo ai cittadini greci questo che non vuole oppure non può offrire lo Stato corrotto. Mm-hmm. Ma e alle accuse di essere comunque un partito che fa della violenza e che fa della paura una forma... No. Queste sono bugie della sinistra e della mass media. Tutto quello che dicono cade nel vuoto, perché le persone arrestate per i presunti crimini razzisti che dicono loro sono... connazionali che al di là delle differenze personali relative al traffico di droga, commercio prodotti importati legalmente oppure da prostituzione, hanno da fare con la ripartizione di loro profitto. La polizia trova il colpevole, però dopo la mass media non lo dicono mai, lasciano gli impressi, dicono che uomini con camicie nere attaccano i migranti legali. Questa è una bugia. Ma questa è una bugia, e magari non sono frange del partito, però la presenza ma la presenza di un partito con queste idee non può alimentare violenza, secondo lei? No. Violenza è solo di sinistra, che mette bombe ai nostri uffici. Vogliono terrorizzare dei nostri membri e seguaci, però non lo potranno fare, perché Alba Dorata oggi e domani apre 3 uffici nuovi a Thrace, nelle città Xanthi, Alexandroupoli, Komotini, e questo vuol dire che le bombe non fanno paura ai greci nazionalisti. Questa non è violenza. Noi non mettiamo le bombe. Come sono? Siamo noi terroristi. Però c'è una sottotraccia di razzismo, questo è innegabile, o no, Elena? Scusa? Siete razzisti? Nel senso... Cosa vuol dire? Cosa vuol dire razzisti? Non abbiamo fabbriche o terra per coltivare e mettiamo i stranieri, i migranti, mm-hmm, lavorare. Mm-hmm. Quindi insomma c'è proprio una difesa estrema del nazionalismo. Un'ultima domanda, Elena, ma nei confronti dell'Europa, voi da sempre dite di uscire dall'euro, comunque accusate la stessa Europa della crisi greca, non sono discorsi fuori dal tempo? Non abbiamo mai detto queste cose. Noi vogliamo cambiare il sistema. I greci devono ritornare a coltivare la nostra terra, aprire le fabbriche ed essere, come si dice, lavorare, i greci soprattutto, e poi gli altri se c'è lavoro, perché adesso in Grecia non abbiamo le fabbriche che hanno bisogno di mani stranieri, capisci? Capisco. Lei che lavoro faceva? Fa politica da sempre? No, io Lavoravo in ufficio, però adesso faccio politica. Hai iniziato a fare politica con Alba Dorata direttamente? Eh sì, da nel 1994. Sì. Sono al partito e sono candida per candida per l'elezione. Candidata, esatto. Candidata per l'elezione, sì. Più di 20 anni. Mm-hmm. Sì, più di 20 anni, quasi, sì. Grazie davvero, Elena Zaruola? Zaruglia. Zaruglia, eccoci qua. Grazie davvero e comunque buon lavoro, grazie per aver accettato di fare questa intervista. Buon sabato. Grazie a te. Europost-it. Mercato globale e sicurezza. Global Recalls Portal è dalla parte dei consumatori. In un mondo dominato dal mercato unico e globale e dagli acquisti online sempre più snelli e veloci, è sempre più difficile monitorare la qualità dei servizi e prodotti scambiati quotidianamente, anzi, ogni singolo minuto. Il consumatore spesso non sa che quello che sta comprando non rispetta gli standard internazionali, mettendo talvolta così a repentaglio i suoi diritti e la sua sicurezza. Unione Europea e i paesi dell'OCSE hanno creato Global Recalls Portal, il portale globale dei richiami, per far sapere ai consumatori quali sono i prodotti che non rispettano i parametri di sicurezza richiesti. Basta inserire il nome del prodotto e il sistema vi dirà se è in regola o meno. Facile, no? Visitate il sito globalrecalls.oecd.org. Eccoci qua ancora con l'altra Europa. Ci piace raccontare storie, fatti, sentire anche voci atipiche, ma poi ci piace anche dare risposta a quella domanda che tante volte sentiamo nella nostra quotidianità. Ok, a cosa serve l'Unione Europea? Vogliamo esempi concreti? Ecco, oggi parliamo di un esempio concreto e in particolare del fronte comune di 48 paesi, i 27 stati membri dell'Unione Europea e altri 21 paesi, non solo dell'Europa geografica, ma non dell'Unione, anche dagli Stati Uniti, alla Thailandia, alla Corea, un fronte comune contro la pedopornografia. Per parlarne, per capire cos'è accaduto e cosa sta accadendo, abbiamo con noi Michele Cercone, portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni. Ciao Michele, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Scusa se ti abbiamo fatto attendere. Nessun problema, grazie mille a voi. Un tema molto sensibile che è quello della pedopornografia e in particolare online. Tema che ha dimensione numerica elevatissima, che però poi viene anche taciuta perché si parla della rete, si parla di quel sottotraccia che si vive, che accade in internet, che quindi magari sfugge poi all'attenzione dell'uomo comune. Invece avete mirato fortemente a combattere proprio questo fatto. Ci puoi spiegare come? Certo, guarda, comincerei dal fatto, dici bene, è un crimine nascosto. Nascosto in due sensi, perché è chiaro che i criminali che caricano queste immagini in rete e i pedofili che approfittano delle nuove tecnologie a scopi illeciti naturalmente vogliono restare ben nascosti negli angoli più bui di internet, ma anche un crimine nascosto perché difficilmente se ne vuole parlare. È un po' una reazione di tutti, è più facile a volte chiudere gli occhi di fronte all'idea di immagini di bambini piccolissimi, violentati, torturati nelle maniere più sadiche, però queste immagini ci sono e i dati ci dicono che ce ne sono almeno 1 milione attualmente su internet e che ogni anno ne vengono caricate altre 50.000, quindi è indispensabile uno sforzo a livello europeo che è già stato fatto attraverso una legislazione molto severa che è stata su cui sono d'accordo tutti gli stati membri, ma abbiamo capito che bisognava andare oltre perché uno dei problemi è che spesso i siti, i server da cui poi queste immagini vengono messe su internet sono al di fuori dell'Unione Europea e per questo abbiamo deciso di coinvolgere partner e paesi ovunque nel mondo in maniera che questa cooperazione ci porti a dar la caccia a questi criminali dovunque si trovino. Ci sono quindi oggi gli strumenti per cercare questi criminali e grazie anche a un'alleanza di questo tipo, quindi sforzi che si vanno a potenziare, ma non solo. È prevista anche tutta un'attività di informazione e formazione ai giovani sui rischi della rete, giusto? Sì, non solo ai giovani, ma a tutti, perché ci siamo resi conto che la diffusione dei media sociali, delle reti sociali, di nuove tecnologie che sono fantastiche, che permettono di comunicare dappertutto nel mondo, purtroppo a volte rappresentano anche un rischio. Quante persone, anche nostri conoscenti, assolutamente in maniera del tutto priva di ogni, così diciamo, di ogni secondo pensiero, postano o mettono su internet immagini dei loro bambini o semplicemente della loro famiglia, e purtroppo molto spesso abbiamo visto che queste immagini vengono utilizzate, e fa molto paura dirlo, ma anche a scopo di ricerca, da reti di criminali che sono al servizio di gruppi pedofili. Quindi un po' di accortezza e un po' di attenzione, soprattutto quando si tratta di bambini piccoli, insegnare poi loro, man mano che crescono, che internet è uno strumento splendido, che si può fare chat, che si può incontrare amici, postare foto, ma in maniera sicura, con alcune precise regole e rispettando alcuni criteri di sicurezza molto precisi. Quindi tutto questo è importante, perché solo attraverso un'informazione e un'educazione anche dei bimbi riusciamo a prevenire, riusciremo a prevenire questa, la diffusione sempre maggiore di queste immagini, e la produzione di queste immagini, che è tra l'altro uno dei problemi più gravi. 1 milione le immagini pedopornografiche attualmente in rete, secondo una ricerca dell'Agenzia delle Nazioni Unite UNODC. Michele, quale sarà il prossimo passo? Nel senso, è stata fatta questa alleanza, ora ci sarà un percorso operativo? Sì, intanto l'alleanza si basa su 3 obiettivi comuni fondamentali, di cui abbiamo già parlato. Il primo è combattere meglio i criminali e i pedofili che scambiano o diffondono queste immagini su internet, attraverso task force di polizia congiunte, attraverso operazioni internazionali che permettano davvero di andare a mettere le mani nei server di queste persone e di metterle in galera, perché è questo quello che bisogna fare. Poi naturalmente la diffusione di informazioni, campagne di sensibilizzazione, e molto importante l'aspetto anche della prevenzione, dell'aiuto e dell'identificazione delle vittime. Grazie alla cooperazione internazionale, sempre più bambini vittime di questi crimini vengono identificati, e molto spesso purtroppo va detto che sono immagini che vengono diffuse in vari paesi. L'identificazione delle vittime a livello internazionale permette di risalire molto spesso all'origine di questi server o di chi ha postato queste immagini, e quindi di davvero concentrare gli sforzi per identificare le vittime e raggiungere i colpevoli. Naturalmente è un problema talmente vasto che non pensiamo di aver trovato la soluzione, ma certo è un buon punto di partenza. Assolutamente. Adesso, tra 2 anni, nel 2014, sì, ad ospitare il nostro fronte comune sarà, l'ultima prossima riunione saranno gli Stati Uniti, e faremo il punto dei progressi e stabiliremo nuovi obiettivi comuni. Grazie davvero a Michele Cercone, portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni. Buon lavoro, Michele, a te e a tutto il tuo team. Grazie. Grazie a voi. E questo grazie va anche a voi per essere stati in nostro ascolto. Michela Aina, Miri Malucchetti, Giorgio De Luca, Carmelo Lauricella. Questa è la squadra dell'Altra Europa. Ci ritrovate su Facebook, su Twitter oppure sul nostro sito radio24.it. L'appuntamento con l'Altra Europa è sabato. Vi ricordo invece che venerdì ci sarà Radio Days, interamente dedicato all'Emilia che riparte. Alle 17 Sebastiano Barisoni con Focus Economia, alle 21 per 2 euro uno speciale, tutto in diretta da Villa Tagliata, siamo a Mirandola in provincia di Modena, ma su radio24.it trovate tutte le informazioni. Ancora ciao da Federico Taddia.